Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le panchine sono piene di gente che sta male. Buonasera ai radioascoltatori, iniziamo con la rassegna stampa settimanale. La notizia principale della settimana riguarda l'arresto dell'assessore al Consiglio regionale della Lombardia, Domenico Zambetti. Sulla Repubblica Milano del 10 ottobre, la notizia: Regione Lombardia, soldi all'Andrangheta in cambio di voti. I carabinieri parlano di preferenze pagate 50 euro l'una in contanti dall'assessore alla Casa del Pirellone. In tutto, ai boss calabresi sarebbero finiti circa 200.000 euro. In manette anche Ambrogio Crespi, fratello del sondaggista, che sarebbe il collettore di voti per la lobby calabrese. Ordine d'arresto, continua l'articolo, per un assessore regionale della giunta Formigoni. I carabinieri parlano di operazione senza precedenti. Un'espressione non raramente abusata, ma in questo caso suona a proposito. Passiamo ad un altro quotidiano, Il Giornale del 10 ottobre. Un dettaglio dell'articolo: arrestato l'assessore Zambetti, comprò i voti dall'Andrangheta. Con l'arresto dell'assessore alla casa, in Regione Lombardia sale a 13 il numero di esponenti politici, fra giunta e consiglio, indagati dal 2010, inizio della legislatura al Pirellone. Proprio l'altro ieri è stato condannato in primo grado a 2 anni e mezzo per falso e truffa il consigliere del PDL Gianluca Rinaldini, mentre la scorsa settimana è stato chiesto il rinvio a giudizio per varie ipotesi di reato, fra cui corruzione per l'ex vicepresidente dell'Aula Filippo Penati, ex braccio destro del leader del PD Pierluigi Bersani. A proposito della difesa invece di Roberto Formigoni, leggiamo sul Fatto Quotidiano del 15 ottobre un articolo: Lombardia, pressioni dei vertici del PDL per la nomina di Zambetti. Chi è il misterioso dirigente che ha garantito e insistito per l'ingresso di Zambetti in giunta? Formigoni non lo dice. Sarebbe bene che il presidente chiarisse con dovizia di particolari perché e da chi gli furono fornite tali rassicurazioni sul conto di Zambetti, oggi coinvolto da pesantissime accuse di legami con l'Andrangheta. In merito alla vicenda, una curiosità dal sito agi.it del 17 ottobre, l'articolo: cosa prevede lo statuto regionale sulle elezioni? Lo statuto della Regione Lombardia prevede all'articolo 12, quarto comma, che in caso di scioglimento anticipato le elezioni sono indette entro 3 mesi secondo quanto stabilito dalla legge elettorale. La Lombardia non ha approvato però una propria legge elettorale regionale. L'articolo 30 dello statuto aggiunge: nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, punto 1. Le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili. Al punto 2. Le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili. Punto 3. Le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vicepresidente. Ne consegue quindi che se Formigoni si dimettesse, le sue funzioni potrebbero passare all'attuale Vicepresidente, il leghista Andrea Gibelli. Passiamo adesso alla questione meramente politica del Consiglio regionale lombardo. Da un articolo del sussidiario.net di mercoledì 17 ottobre sembra profilarsi la possibilità di un accordo tra Lega e PDL per risolvere l'intricata crisi della regione Lombardia. Come si sa, negli ultimi giorni si è assistito a quello che è stato definito un ribaltone della Lega rispetto agli accordi presi tra Maroni, Alfano e Formigoni. Accordo che riguardava la possibilità che la legislazione durasse fino al suo termine, il 2015. Poi il colpo di scena con la Lega che annunciava di voler andare alle elezioni ad aprile e la contromossa di Roberto Formigoni che scioglieva il Consiglio regionale per poter indire elezioni immediate entro Natale. Molte le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni sui motivi di tale possibile ribaltone, con chi sosteneva l'esigenza di un accordo tra Berlusconi e Lega per dare a Maroni la Lombardia in cambio dell'alleanza alle prossime elezioni nazionali, voci peraltro smentite dallo stesso Formigoni. Ieri sera l'ex ministro Ignazio La Russa ha dichiarato di essere a favore delle primarie di coalizione, di fare in un mese la legge elettorale lombarda e votare alla prima data utile di febbraio. Tra i candidati preferirebbe Gabriele Albertini per il PDL. Passiamo ad un'altra notizia. Il comune di Reggio Calabria sciolto dal Consiglio dei Ministri. Al sito dell'ANSA del 9 ottobre leggiamo: il Consiglio dei Ministri scioglie il comune di Reggio Calabria. Cancellieri, atto sofferto, deciso a favore della città. Il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento del comune di Reggio Calabria per contiguità mafiose. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, che ha parlato di atto sofferto, fatto a favore della città. È la prima volta nella storia d'Italia che viene sciolto il consiglio comunale di un capoluogo di provincia. Abbiamo la volontà, ha aggiunto il ministro, di restituire il paese alla legalità. Senza legalità, infatti, non c'è sviluppo. Approfondendo la vicenda da strill.it, occorrerà determinazione, scrupolo ed equilibrio, che saranno fondamentali nella nostra azione, nell'interesse generale per assicurare il rispetto delle procedure. Ci attende un lavoro duro, ma di estrema gratificazione. Queste le prime considerazioni della terna commissariale insediatasi poco prima di mezzogiorno a Palazzo San Giorgio, guidata dal prefetto di Crotone Vincenzo Panico. Insieme a lui escono da Palazzo del Governo, dopo un lungo colloquio con il prefetto Vittorio Piscitelli, anche il viceprefetto Giuseppe Castaldo e il dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria dello Stato, Dante Piazza. Adesso passiamo ad un'altra notizia della settimana. Dal sito adncronos.com, DDL anticorruzione, sì del Senato, Severino, noi governo di onesti. Ora passa all'esame della Camera, è stato approvato con 256 sì, 7 no e 4 astenuti. Il via libera dopo il sì alla fiducia posta sul maxi emendamento. Monti, strumento fondamentale per la crescita e per l'attrattività degli investimenti. Il DDL anticorruzione introduce il traffico di influenze. Per la concussione c'è l'indebita induzione. Se il reato invece riguarda atti giudiziari, la pena può arrivare a 10 anni. Corruzione tra privati, si procede d'ufficio se c'è alterazione della concorrenza. A testimonianza del grande risultato, un rapporto fornito da Libera e Lega Ambiente. Oggi in Parlamento 21 i condannati in via definitiva, 90 gli indagati o condannati per reati contro la pubblica amministrazione tra il 2008 e 2012. Per quanto riguarda gli scandali, le indagini e le condanne che hanno coinvolto le regioni italiane, Don Ciotti ha fatto riferimento al coma etico che si trascina. Potremmo aggiungere che le vicende giudiziarie che stanno travolgendo la politica potrebbero allontanare i cittadini dal rapporto con le istituzioni. Per quanto riguarda la rassegna stampa è tutto. Un saluto ai radioascoltatori. Dovevano sposarsi lunedì, ma lei aveva cambiato idea e lui l'ha uccisa. Al culmine di una lite, Claudio Varotto, 57 anni, ha colpito la compagna, Rosina Lavrericic, di 60 anni, con cui conviveva da un decennio. 6 giugno 2012, Gorizia. Sabrina Blotti aveva denunciato il suo assassino per stalking. Gaetano Delle Foglie ha massacrato la donna di 45 anni con cui aveva avuto una breve relazione. Poi è scappato asserragliandosi nel Duomo di Cervia dove si è sparato. Ennesimo caso di un uomo che uccide una donna. Cesena, 31 maggio 2012. Ha confessato nella notte tra venerdì e sabato al sostituto procuratore Valentina Salvi. Ivan Forte, 26 anni, ha ucciso strangolandola con le proprie mani la convivente Tiziana Olivesi, 41 anni, prima di dare fuoco al loro appartamento nel tentativo di nascondere la propria colpa. 22 aprile 2012, Rubiera. Ad oggi sono 107 le donne che sono morte nel 2012 a causa di femminicidio. da te, quella che fa il leasing, che si innamori di te, la capitana Nemo, quella che va al briefing, perché lei è del ramo e viene via dal meeting, stronza come un uomo, sola come un uomo. Comincia la seconda parte di questa puntata. Siamo rimaste solo noi fanciulle, quindi ringraziamo Dario che si è occupato della rassegna stampa nella prima parte. Ringraziamo ovviamente il nostro fantastico tecnico, super tecnico, Stefano. Sempre lui. E poi diciamo chi siamo. Quindi alla mia sinistra. Sono la Bisa, benvenuti a tutti. Bene, poi io sono Tania, poi... Io sono Francesca. Io Sara, ciao a tutti. Cioè, Francesca è la portentosa Francesca della scorsa puntata, voglio dire. Sempre quella. È importante riconoscerla comunque. Sì, assolutamente. In questa puntata parliamo di femminicidio. Femminicidio? Una parola strana. È una parola che è un neologismo, appunto, proprio in ragione del... sì, in ragione del gran numero di omicidi che si sono susseguiti nell'ultimo periodo e che si chiama femminicidio proprio perché con femminicidio si va a identificare l'omicidio della donna, ma che viene uccisa proprio in quanto donna, nel suo essere donna. Ma è un reato penalmente riconosciuto e tutelato nella sua fattispecie specifica? No, scusate il gioco di parole. No, non è un reato che viene identificato all'interno del codice penale, ma una identificazione che prima è di tipo sociologico, nel senso che è nato come la stessa parola è nata all'interno dei media, quindi nell'universo giornalistico, e che poi successivamente la giurisprudenza si sta curando, ma ancora adesso è in corso un lavoro di questi. Ma e noi di Libera come mai trattiamo il femminicidio? Perché secondo noi in realtà è legato al tema della mafia ed è evidente da capire. Pensiamo a come lavora un mafioso. Cosa vuol dire essere mafioso? Che io ti do la mia protezione, in cambio tu mi paghi o comunque resti a mia completa disposizione, pronto a fare o subire qualsiasi cosa io ti chieda. Però attenzione, io ti offro la mia protezione da cosa? Da me. È qui che sta il gioco sbagliato. Quindi nel momento in cui tu decidi di essere cittadino normale, libero, indipendente, semplicemente non puoi, perché hai questo patto che ti vincola a me sempre. E questi uomini hanno agito nei confronti delle loro donne nella stessa maniera, cioè hanno considerato le loro donne come cose, e nel momento in cui queste hanno provato a essere libere, indipendenti, a fare quello che volevano, li hanno uccise. Sì, ma infatti Tania, se andiamo a vedere un attimo i dati, il numero più alto di femminicidi avviene proprio nel centro-nord, al contrario di quanto pensano le persone, dove la donna ha una certa una certa affermazione a livello sociale, è un proprio lavoro. La donna. Esatto, infatti Vecchioni nella canzone esprime in maniera ironica il disagio dell'uomo che si vede portato via, la donna appunto con la gonna che gli prepara la minestra. Esatto, vi lasciamo un secondo in compagnia di una bellissima voce femminile, Janis Joplin, con Try Just a Little Harder. Nobody. Abbiamo parlato di femminicidio e dell'atteggiamento mafioso. In proposito volevamo ricordare Lea Garofalo, nata in provincia di Crotone, sorella del boss andranghetista Floriano Garofalo, diventa presto collaboratrice di giustizia raccontando le faide interne fra la propria famiglia e quella del suo ex compagno Carlo Cosco. Viene tolta nel programma nel 2006 perché alle sue dichiarazioni mancava un riscontro, decisione poi revocata e rientra nel regime di protezione fino all'aprile del 2009, quando lei è rinunciarvi. Nel 1 di maggio, il 5, c'è un tentativo di rapimento, viveva a Campobasso per un guasto alla lavatrice e chiama l'ex compagno che le manda Massimo Sabatino, che tenta di rapirla. Riesce a scappare e informa carabinieri. Arriviamo al novembre, precisamente il 24, lei avrebbe dovuto deporre a Firenze come testimone in un processo sui diretti coinvolgimenti del suo compagno. Lui la convince, con la scusa di parlare del futuro della figlia Denise, a raggiungerla a Milano, dove viene rapita da Massimo Sabatino e Carmine Venturino e consegnata a Vito e Giuseppe Cosco, fratelli dell'ex compagno. Torturata e uccisa, poi sciolta in 50 litri di acido in provincia di Monza, precisamente in San Fruttuoso. Il processo si è concluso il 30 marzo del 2012, quindi dopo 2 anni, dopo un excursus difficoltoso con 6 ergastoli. È importante, e ci tengo personalmente a dirlo, è il grande coraggio che ha avuto la figlia Denise a schierarsi parte civile, con il contributo e la forte presenza e affetto di Libera, di Nando Della Chiesa e Giulio Cavalli, che ha ricevuto persino offese in aula. Altro da dire che non è stato riconosciuto l'aggravante sensi dell'articolo 7 relativo alle modalità mafiose della legge 203 del 1991. E sì, aggiungo che Libera nel processo si è costituita parte civile ed è stato dedicato recentemente il nome di un presidio a Lea Garofalo. Vi ringraziamo e vi lasciamo con la canzone di Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Thank you.